100 miliardi per il Sud, Berlusconi è quanto umanamente possibile e oggi andrà a Napoli. I magistrati contro la riforma, colpisce l'indipendenza, contro di noi una campagna assurda, dicono. Indagati i vertici dell'ENAV, perquisizioni anche a Finmeccanica. Marchionne con i sindacati a Mirafiori, la politica resti fuori dalle fabbriche. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Protestano ancora gli studenti, anche questa mattina insorgono anche i magistrati contro la riforma della giustizia. Intanto il governo ha presentato il piano per il Sud. Cominciamo allora da Palazzo Chigi con Andrea Viali. Buongiorno. Sì, buongiorno Anna. È un piano che complessivamente prevede risorse per oltre 100 miliardi di euro, quello che è stato varato stamattina dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di cifre rilevanti, ha detto il Premier Berlusconi, che poco fa ne ha illustrato i contenuti. Berlusconi ha anche sottolineato come questo piano sia uno dei 5 punti del programma con cui il governo ha ottenuto da poco la fiducia del Parlamento. Ma sentiamo le sue parole. Credo che per il Sud non si possa fare altro. E credo che con questo piano per il Sud il governo faccia tutto ciò che si può fare, che è umanamente possibile fare per tenere insieme l'Italia. Da un lato il federalismo fiscale e dall'altro il piano per il Sud come controfaccia della medaglia. Ecco, un concetto questo dei rapporti tra le regioni del nord e quelle del sud che è stato espresso con altre parole anche dal ministro dell'economia Tremonti, sentiamolo. L'Italia è un paese duale, perché l'economia del centro-nord è diversa dall'economia del sud. Non vogliamo assolutamente non vogliamo che diventi un paese diviso. Vuol dire che le politiche da fare per il centro-nord sono di un tipo, per il sud sono di un altro e necessariamente molto più intenso tipo. Ecco, il piano prevede anche l'istituzione della Banca del Mezzogiorno, ha aggiunto Tremonti. La Banca del Mezzogiorno è un passo importante, lo ha definito il Ministro dell'Economia. Il Ministro Fitto invece ha spiegato che i decreti che sono stati varati stamattina, due decreti, da un lato servono ad individuare gli interventi che andranno realizzati in materia di infrastrutture, dalle scuole alle ferrovie alle strade, dall'altro invece serviranno per definire il modo in cui andranno realizzati questi obiettivi che saranno individuati nei prossimi 30 giorni, in modo che poi vengano effettivamente realizzati in tempi certi e con le risorse previste, evitando così sprechi e ritardi come avvenuti molto spesso negli anni passati. Per il momento da Palazzo Chigi è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Oggi pomeriggio intanto Berlusconi andrà invece a Napoli. Avere sotto la finestra un vessuglio di spazzatura e pagare 410 euro all'anno di spazzatura non è giusto. Ogni mattina sento questo tanfo di immondizia che sarà pure una settimana. Il muro di Piazza Borsa, come la barricata di via Mezzocannone, sono lì, come il cumulo davanti al porto o le colline di via Medina. Troverà 2.700 tonnellate di spazzatura nelle strade solo a Napoli. Silvio Berlusconi, richiamato in Campania da un'emergenza rifiuti, di nuovo esplosa. Troverà l'insofferenza della gente e le tensioni degli amministratori che confidano ora nel nuovo decreto per risolvere una crisi da subito apparsa peggiore della precedente. In molti chiedono la proclamazione dello stato d'emergenza. Nell'immediato Napoli sollecita un'ordinanza per portare la spazzatura anche nelle altre province e non affogare nella monnezza. Troverà Berlusconi anche le proteste crescenti intorno al Vesuvio, dove anche stanotte sono continuati i presidi dei cittadini che controllano i camion diretti alla discarica e dove è ancora occupato il comune di Bosco Reale. Ma i sindaci della zona rossa gli sottoporranno anche una loro ricetta anticipata da Gennaro Langella. O farne un paio di medie dimensioni o farne almeno 3 o 4 di piccole dimensioni, grandi di trattamento dell'umido. È difficile dialogare con la gente, c'è un clima di paura. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Università ancora in protesta, dicevamo, anche questa mattina studenti sui tetti, in alcune città anche sotto la neve. A Genova bloccata la stazione del pianeta Università, però parleremo più avanti in apertura della seconda parte del nostro giornale. Intanto a protestare, seppure naturalmente in modo diverso, sono anche i magistrati. Parole dure, quelle usate dal presidente della ANM Luca Palamara questa mattina. Vincenzo Miglietta. l'ultimo giorno è così, è un vero e proprio allarme quello lanciato dalla ANM sullo stato della giustizia e al collasso, ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Palamara. Il cattivo funzionamento del servizio e quindi il mancato rispetto della ragionevole durata del processo, ha spiegato, assumono carattere oggettivamente prioritario e necessitano di interventi urgenti. Occorre voltare pagina, ha detto ancora Palamara, che ha difeso l'autonomia delle toghe, puntando quindi il dito su tentativi di riforma tesi a limitarne l'indipendenza. Ma ascoltiamo questo passaggio. Il nostro non è un ruolo di avversari. Resto sempre convinto che il rapporto tra la magistratura e gli altri poteri debba accantonare sterili polemiche e strumentali antagonismi per individuare validi strumenti di politica giudiziaria che invece purtroppo a tutt'oggi latitano, come continua a mancare un'organica e razionale riforma della giustizia. Abbiamo assistito infatti a una serie di interventi episodici e contingenti, dettati dall'esigenza di risolvere situazioni legate a singole vicende processuali e mirate a limitare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Presente all'apertura del congresso le più alte cariche dello Stato, l'ANM resta, ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, un interlocutore rappresentativo ed essenziale, ma ascoltiamo Napolitano. L'Associazione Nazionale Magistrati resta ed è più che mai un interlocutore rappresentativo ed essenziale in una fase delicata nella quale è indispensabile il recupero della fiducia del cittadino nel sistema giudiziario anche attraverso un corretto rapporto tra magistratura e politica. Infine, i presidenti di Senato e Camera, con le riforme non ci sono pericoli per l'autonomia dei magistrati, ha detto Schifani, le istituzioni, ha commentato Fini, hanno il compito di difendere le toghe. E da Roma è tutto. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. Era ormai diventato il caso Desio. Parliamo del comune della Brianza, dove c'erano stati diversi arresti nel maxi blitz tra Lombardia e Calabria della scorsa estate. Questa mattina è caduta l'amministrazione comunale di centrodestra a votare col PD anche la Lega Nord. Al microfono di Raffaella Calan, Lucrezia Ricchiuti, PD, anima delle manifestazioni anti-andrangheta in Brianza. C'era un capo locale che era appunto Annunziato Moscato. Affiancati a loro però non c'erano solo calabresi. Quello che loro sono riusciti a fare è comunque avere un legame con la politica. Il fratello Natale Moscato era stato assessore ai lavori pubblici ad Esio. Il sospetto è che quindi i loro interessi si siano tramutati in un boom di costruzione. Sì, sì. Un boom edilizio che ha portato dietro di sé anche abusi edilizi oppure no? Ci sono stati diversi abusi edilizi, hanno costruito tutte le mansarde abusive. Qua pagavano il pizzo ristoranti, sono state fatte estorsioni su aziende ma che non c'entravano con le imprese edilizie. Qua pagavano tutti il pizzo, cioè tutti, in tanti pagavano il pizzo. E sul fronte della cronaca giudiziaria questa mattina sono scattate perquisizioni per un'inchiesta che coinvolge i vertici dell'ENAV. Reati fiscali, ovvero fatture gonfiate per creare fondi neri. Il nodo delle due inchieste aperte sull'ENAV è qui. La prima inchiesta nasce dalla denuncia di un ex dipendente che metteva in discussione i bilanci della società. All'interno della stessa si starebbe vagliando anche l'acquisizione a dicembre del 2006 della Vitrocisat, gruppo specializzato in sistemi elettronici e informatici civili e militari, per circa 100 milioni di euro. La seconda inchiesta, per la quale sono scattate le perquisizioni di oggi, chiama in causa, oltre all'ENAV, 8 società che dall'ENAV hanno avuto appalti. Tra queste c'è anche la Selex Sistemi Integrati, la cui responsabile è Marina Grossi, moglie del presidente di Finmeccanica Guarguaglini, indagata per corruzione. Al momento si fa sapere che Finmeccanica non è direttamente coinvolta nella vicenda. Gli investigatori hanno però perquisito anche l'ufficio e l'abitazione di Lorenzo Borgogni, direttore centrale relazioni esterne di Finmeccanica e stretto collaboratore di Guarguaglini, perché presente in una delle società coinvolte negli accertamenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivato su questo il commento del presidente del Consiglio Berlusconi. Sono preoccupato perché Finmeccanica è un asset straordinario, ha detto il premier. Mi auguro che queste indagini portino a nulla, come sono convinto. Considero suicida che il paese proceda contro chi costituisce con la propria capacità operativa la forza del paese. Andiamo a Torino ora, dove l'amministratore delegato Fiat Sergio Marchionne ha incontrato i sindacati di Mirafiori. La politica resti fuori, ha detto, poi ha avanzato una serie di proposte. Per noi c'era Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Qui a Torino si è concluso da circa mezz'ora l'incontro tra Fiat e i sindacati metalmeccanici. Dopo una prima parte con la di Fiat, Sergio Marchionne, le organizzazioni si sono confrontate con il responsabile relazioni industriali, Paolo Rebandengo. Marchionne ha spiegato di aver voluto essere presente per il particolare rilievo che hanno i lavoratori di Mirafiori come simbolo Fiat nel mondo. Il piano industriale da lui illustrato prevede a partire dal 2012 una joint venture tra Chrysler e Fiat per portare a Torino una nuova piattaforma dagli Stati Uniti che servirà per produrre auto e SUV di classe superiore con i marchi Jeep e Alfa Romeo. L'investimento previsto è superiore al miliardo di euro, dovrebbe portare una produzione di 250-280.000 vetture l'anno contro le 120.000 attuali. La richiesta ai sindacati è più flessibilità, a partire dalla possibilità di modulare orari e organizzazioni, offrendo di discutere delle soluzioni pregiudiziali. Molto soddisfatti Maurizio Peverati della Wilm, Chiarle della FIM, Di Maolo della Fismic, soprattutto per la produzione industriale. Più perplesso Giorgio Airaudo della FIOM, secondo cui alle aperture di Marchionne nella seconda parte sono seguite ipotesi di riorganizzazione interna che ripetono lo schema pomigliano, ma anche la FIOM si è detta disponibile ad approfondire il confronto. Il tavolo riprenderà alle 17 di lunedì ed è tutto. Grazie a Paolo Piacenza. E ci sono altri numeri che sono impressionanti. Il fumo passivo uccide 600.000 persone l'anno nel mondo, di cui 165.000 bambini sotto i 5 anni. Sono stime pubblicate da una rivista medico-scientifica britannica. Se si aggiungono a queste cifre i 5,1 milioni di decessi causati dal fumo attivo, si arriva ad un totale di 5,7 milioni di decessi dovuti al tabacco ogni anno. Disagi all'aeroporto milanese, si atterra ma non si decolla Linate, imbiancate le autostrade al nord e al centro, in particolare in Abruzzo, è la prima neve che oggi era attesa e si è presentata puntuale. Il picco è previsto domenica, ma intanto sono le zone già colpite dall'alluvione in Veneto quelle che hanno avuto maggiori disagi. A Vicenza sono tornati in campo i volontari. Paolo Zinabi, allora siete di nuovo in strada? Sì, buongiorno. Vicenza non ha tregua, in pesante nevicata ha interessato la città e una parte della provincia questa mattina. Centro cittadino bloccato, molte strade della città e anche del nord della provincia sono rimaste bloccate pure. Anche il casello autostradale di Montecchio, la strada Priabona che collega Arzignano con la zona di Schio e Tiene, anche la strada che porta ad Asiago. Il comune ha deciso di muoversi. A dire il vero, la città era un po' impreparata, i mezzi spartisali si sono mossi in ritardo rispetto all'emergenza. E infatti dove sei, Paolo? Un centro cittadino dove si sono radunati, tra l'altro, segnalare questa iniziativa qui con la Vitun, i volontari dell'alluvione sono stati richiamati dal comune e vengono pagati 7 euro e mezzo netti all'ora per spalare la neve. Si sono presentati 200 giovani, per la maggior parte giovani. Ultima cosa, ironia della sorte, proprio stamane la Regione aveva presentato al Ministero, al Governo, la lista delle 3.400 imprese colpite dall'alluvione per chiedere l'esenzione dalle tasse. Per ora da Vicenza è tutto. E grazie a Paolo Usinabia. Le notizie di oggi di GR24, 100 miliardi per il Sud, approvato il piano presentato dal governo, Berlusconi è quanto umanamente possibile e oggi andrà a Napoli. I magistrati contro la riforma colpisce l'indipendenza, contro di noi una campagna assurda, dicono. Indagati i vertici dell'ENAV, perquisizioni anche a fine meccanica, Berlusconi è suicida a colpire la forza del paese. Marchionne con i sindacati a Mirafiori, la politica resti fuori dalle fabbriche, a Torino si produrranno Jeep e Alfa. E noi riprendiamo, come avevamo anticipato, con le proteste nelle università. Anche oggi manifestazioni e cortei, allora facciamo il punto con Maria Piera Ceci. Sì, Anna, partiamo dall'Aquila, dove nevica, fa molto freddo, ma questo non ha scoraggiato gli studenti che questa mattina sono saliti sul tetto della facoltà di lettere, su quello del polo scientifico di Coppito, fra le poche sedi universitarie rimaste purtroppo in piedi dopo il terremoto. Va avanti l'occupazione a Perugia, veglie notturne a Sassari e Cagliari, e a Palermo alcuni ragazzi si sono incatenati sull'obelisco della Statua della Libertà in Piazza Vittorio Veneto, con i compagni intorno a formare un grande girotondo. A Genova, corteo per le vie della città è occupata per qualche tempo la stazione ferroviaria di Genova Principe. E dilaga la moda dei tetti fra i politici. Dopo Bersani e Granata nei giorni scorsi, un altro politico oggi si è arrampicato su un tetto. Parliamo del verde Angelo Bonelli, che poco prima di mezzogiorno è salito insieme al regista Paolo Virzì sul tetto della Facoltà di Architettura della Sapienza a Roma. In dono ai ricercatori hanno portato delle cassate siciliane, perché dovete avere la forza per fare questa battaglia, ha scherzato Bonelli. A te, Anna. Grazie a Maria Piera Ceci. Ma quali sono le ragioni degli studenti e dei ricercatori? Cosa c'è dietro la protesta? Allora sentiamo cosa prevede la riforma. Un provvedimento organico che responsabilizza le università in materia finanziaria, didattica e scientifica. Così il Ministero presenta la riforma nelle sue linee ispiratrici. Nella pratica chiede alle università di dotarsi di un codice etico che eviti incompatibilità e clientelismi. Si impone una riduzione del numero di facoltà e anche dei settori scientifico-disciplinari. Si auspicano fusioni o aggregazioni per ridurre i costi e per i meno efficienti e con problemi di bilancio è previsto anche il commissariamento. Ai rettori sarà concesso un mandato di massimo 6 anni e si introduce la possibilità di sfiduciarli. Cambiano anche le norme sulla composizione dei consigli di amministrazione e del senato accademico, con una più netta divisione di competenze tra i due. Si prevedono scatti di stipendio solo per i migliori docenti, mentre i giovani ricercatori avranno contratti a tempo determinato di massimo 6 anni, al termine dei quali potranno essere confermati o meno come associati. Per le borse di studio si istituirà un fondo per il merito, alimentato da finanziamenti privati e, eventualmente, pubblici. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Sardegna divisa in due, riaccendersi anche la protesta dei pastori. È stata bloccata la strada statale 131 Sassari-Cagliari nei due sensi di marcia all'altezza del bivio di Bolognata. Di fatto l'isola è rimasta per diverse ore divisa in due. Se l'estate è stata calda e l'autunno bollente, l'inverno sarà fondente, ha detto il leader del movimento Pastori Sardi Felice Floris. Non regge dunque l'accordo siglato con la regione. È stato lo stesso Berlusconi, dopo aver presentato, come dicevamo in apertura, il Piano Sud, questa mattina a fare anche il punto su un'altra emergenza, il terremoto in Abruzzo. Con lui il presidente della regione, Chiodi. Primo argomento, esiste una legge, la legge per il terremoto, che è la legge, il decreto legge 39, ed è conosciuta come il decreto Abruzzo, e costituisce la vera legge organica sul terremoto. Oggi da più parti si dice che c'è bisogno di una legge. La legge c'è, la legge esiste, è il decreto legge 39. Questa legge ha stanziato, cosa più importante, le risorse. Ha stanziato per 14,767 miliardi di euro. La crisi in Europa esclude la necessità di un salvataggio della Spagna, lo ha assicurato questa mattina il primo ministro spagnolo Zapatero. Gli investitori che scommettono su un default della Spagna, aggiunto, sono in errore e andranno contro i propri interessi. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 rispetto al 2008 c'è stato un calo di oltre il 20%. Nel 2010 si è fatto un 24% in più. A poter contare su questo risultato è Pietro Taddeucci Sassolini, titolare dell'anificio dell'Olivo di Campi Bisenzio, provincia di Firenze. Un'azienda storica nata in realtà nel Pratese. Produce filati in lana, da maglieria e da tessitura. Per uscire dalla crisi l'anificio ha puntato soprattutto sull'export, come spiega ancora il titolare. Noi viviamo sempre di una continua innovazione da coniugare con l'evoluzione dei trend del fashion, della moda, e quindi dobbiamo sempre due volte l'anno fare una collezione invernale, una collezione estiva, sempre vestita di nuovo. Abbiamo continuato a fare il nostro mestiere, abbiamo cercato di farlo con più impegno e sono venuti, diciamo, i risultati, soprattutto dovuti in gran parte all'export. Sull'export abbiamo aumentato il 38%. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è una notizia dell'ultima ora, si va verso il sì a una replica delle associazioni Pro Vita nella trasmissione di Fabio Fazio e di Saviano, Avieni via con me. Dopo questa mattina c'è stato un incontro tra il direttore generale Masi e il numero 1 di Rai 3 Ruffini, e secondo fonti di Viale Mazzini, dopo l'incontro, come chiesto dal CDA, le associazioni Pro Vita potrebbero avere uno spazio per esporre le loro tesi dopo la partecipazione di Englaro e Mina Welby nella prossima puntata di Vieni via con me, in onda lunedì. WikiLeaks spaventa ancora Washington. Gli Stati Uniti avrebbero contattato alcuni paesi alleati in vista dell'imminente pubblicazione da parte del sito di nuovi documenti riservati. Tra le circa 2,7 milioni di comunicazioni fra il Dipartimento di Stato americano che verranno diffuse, ci sarebbero rapporti con accuse di corruzione nei confronti di politici e governanti in Russia, Afghanistan e in altre repubbliche dell'Asia centrale. La casa romana di Alberto Moravia, dove morì il 26 settembre 1990, all'età di 83 anni, si trasforma in museo e apre al pubblico alle 13.30, puntata speciale di Italia in controluce. E ora un altro appuntamento al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano, invece, dove da oggi fino a domenica si apre la seconda edizione di Step 09, una fiera d'arte contemporanea un po' diversa da quelle istituzionali. Ospiti sono 40 gallerie d'arte con opere a prezzi accessibili a tutte le tasche. Uno dei curatori, Francesco Gattuso, al microfono di Adriana Fracchia. Mi piace perché siamo comunque all'interno di un museo e dobbiamo rispettare i parametri museali per l'allestimento, quindi ognuno si è dovuto impegnare a cercare di capire come poteva esporre, che cosa, dove. Poi dopo chiaramente ci sono le performance, i concerti che durante il giorno si possono vedere, oppure anche le opere allestite proprio da visitare, e questo siamo ancora sul vivace. Dopo c'è Nomade, perché abbiamo fatto due gemellaggi con Berliner Liste, che è una fiera di Berlino, e Green Art Fair di Pechino, che è una fiera un po' come la nostra, e partiamo con gli scambi, nel senso che loro vengono qui e poi noi andiamo da loro con una nostra selezione di gallerie per fare scambi di collezionisti, di pubblico. È proprio il movimento. Adesso stiamo già lavorando su altri movimenti nomadi dell'arte interdisciplinare, perché chi viene si può divertire a trovare opere di pittura, video, installazioni, anche gli artisti che fanno seduti lì che aspettano il pubblico sono anche loro, diventano anche loro opera vivente. C'è un po' questo clima del gruppo che sta insieme per proporre i propri lavori. E c'è un'altra curiosità, una notizia appena arrivata in redazione. Questa mattina a Milano è nata Penelope, la figlia di Gianna Nannini. La notizia della gravidanza, ricorderete, rivelata a fine agosto, aveva provocato un dibattito sull'opportunità di diventare madre a 54 anni. Questa mattina è nata la piccola. Il calcio, prima di chiudere, dove a tenere banco sono i guai di Mourinho. Antisportivo di sicuro, come chi perde apposta, e nei recenti mondiali di pallavolo in casa nostra abbiamo avuto nuovi molteplici esempi. In quel caso abbiamo dato la colpa alla formula un po' stupida. Qui invece si inchioda Mourinho, come sta tentando di fare anche l'UEFA, che ieri ha ufficialmente aperto la sua inchiesta. Si tenterà di dimostrare la condotta impropria di Mu, dei due espulsi Xabi Alonso e Sergio Ramos, dei messaggeri Casillas e Dudek. Come sia possibile trovare le prove della volontarietà non ne abbiamo la minima idea, dato che la tortura non è contemplata. Il Reale è sorpreso, però c'è un precedente. Novembre 2008, due giocatori del Lione, Juninho e Chris, si fecero ammonire nel match contro la Fiorentina per andare in squalifica nell'ultima partita della fase a gironi e tornare agli ottavi senza cartellini gialli a carico. In quell'occasione i due giocatori furono puniti con un'ammenda di 10.000 euro a testa. Probabile finisca così pure stavolta. Comunque tutti inchiodano Mourinho, compresi i giornali di casa sua, ma pochi aggiungono che pure su quella regola ci si potrebbe chiedere se non sia meglio restituire ai giocatori la vera virginità al termine della prima fase del torneo, cancellando le ammonizioni pregresse e con esse ogni tentazione. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Ritroveremo Carlo Genta alle 14. Oggi c'è Palla a Spicchi. Nel frattempo noi invece ci fermiamo qui, in regia Fabio Cantadori. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.